fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta pena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ottantasette e nove, la frequenza di Radio Onda Rossa, sono le 16:10, cominciamo una nuova puntata dell'Ora di Buco, la trasmissione dei lavoratori e lavoratrici della scuola che parlano di scuola con qualche papera, ma insomma. Allora, prima di cominciare con gli argomenti di quest'oggi, ovviamente vi diamo tutti i numeri, lo 06 49 17 50 è il numero di telefono della radio, potete chiamarci per intervenire. E ricordiamo anche che questa radio ha bisogno del sostegno di tutte e tutti coloro che l'ascoltano, quindi ancora una volta il numero da memorizzare è il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma. C'è poi il nostro blog oradibuco.noblogs.org e poi la posta della radio, se volete scriverci per questo o altri argomenti, ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito www.ondarossa.info. Sì, oggi cominciamo a parlare da dove ci eravamo lasciati la scorsa puntata, cioè della valutazione delle scuole, e quindi in particolare volevamo parlare delle prove INVALSI, visto che ne abbiamo parlato, ma nel concreto molte e molti non sanno di cosa stiamo parlando. Sì, questo delle prove INVALSI è un argomento veramente centrale, perché come abbiamo cercato di spiegare più nel dettaglio possibile, l'INVALSI sia come istituto proprio, quindi sia come organismo, ma sia anche come tipo di prova che viene somministrata agli alunni di tutte quante le classi, abbiamo detto su base censitaria, questo lo sappiamo, insomma, della scuola elementare, della scuola media, primo e ultimo anno, e del quinto ginnasio, cioè del secondo anno della scuola superiore, e a partire dall'anno prossimo dell'ultimo anno della scuola superiore. Questa prova è centrale proprio all'interno del sistema nazionale di valutazione, e di cui abbiamo cercato di rendervi ragione e che abbiamo cercato di illustrare già nelle scorse puntate. E la volta scorsa in realtà avevamo presentato un convegno che si è svolto a Ostia al liceo Anco Marzio venerdì scorso, in cui ci sono stati interventi proprio mirati ad analizzare diversi aspetti di quello che è il sistema nazionale di valutazione e dell'INVALSI. Ci sono stati interventi interessanti di Anna Angelucci e di Marina Boscaino, tra l'altro pensavamo anche di di coinvolgere le due relatrici in prossime puntate, proprio per permettere anche approfondimenti ulteriori secondo ottiche anche diverse. E in particolare cito questi contributi perché l'intervento di Anna Angelucci venerdì scorso è stato particolarmente interessante, perché non solo in qualche modo ha fornito una contestualizzazione storica di quella che è la didattica e la valutazione attraverso lo strumento del test, e quindi diciamo permette un pochino di inserirla anche in quella che è la prospettiva ideologica, se casomai ce ne fosse bisogno, prospettiva ideologica di riferimento, ma ha anche dato alcuni dati importanti circa quella che è la valutazione che a vari livelli viene data di questo tipo di prove in quelle aree del mondo, tristemente, dove questo tipo di pratica è nata e che ne hanno fatto un uso più diffuso. In particolare, come sicuramente molti di voi sapranno, la politica scolastica dei test nasce in ambiente anglosassone, in particolar modo in Inghilterra, nell'Inghilterra di Margaret Thatcher alla fine degli anni Ottanta, e viene ripresa e sviluppata poi negli Stati Uniti, nell'America di Bush, a partire dal 2002, con specifici atti, ma non vi annoierò, diciamo, citandoli. E però, sebbene l'ispirazione di questo tipo di politica sia chiara, non è mai stata smentita dalle successive amministrazioni, sostanzialmente dall'amministrazione Clinton e poi da chi è venuto dopo, perché evidentemente tanto negli Stati Uniti, tanto in ambiente anglosassone quanto in Italia, sembra che le politiche della destra e della sinistra siano sovrapponibili rispetto a quella che è il problema della valutazione scolastica. Comunque sia, è evidente che i criteri a cui rispondo e questo tipo di impostazione sono criteri che appaiono piuttosto particolari, perché tra i primi c'è quello della accountability, cioè sostanzialmente la rendicontazione sociale, che è ben presente anche all'interno dell'impianto del nostro sistema nazionale di valutazione, che dovrebbe amplificare quelle che sono le possibilità di scelta delle famiglie, anche in connessione con quella che è l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Quindi evidentemente l'aspetto centrale di questa politica, che come abbiamo cercato di sottolineare altre volte vuole rendere tutto semplificabile, tutto misurabile, perché tutto possa essere confrontabile, ha come istanza ultima sostanzialmente quella, oltre alle tante che abbiamo già messo in evidenza, quella di amplificare e di favorire una eventuale capacità di scelta delle famiglie, che vengono poi evidentemente a condizionare non solamente le scelte delle singole istituzioni scolastiche, ma proprio le scelte didattiche in qualche modo che vengono piegate a questo tipo di esigenza. Per farla non troppo lunga, dicevamo delle riflessioni critiche che in ambiente anglosassone e soprattutto in Inghilterra già da diversi anni in qualche modo si stanno svolgendo rispetto a questo tipo di didattica, alla didattica del test, e proprio la Royal Academy inglese ha messo in evidenza recentemente una serie di lati, aspetti totalmente negativi, che vanno da quelli più evidenti, come per esempio il fatto di amplificare quella che è la competizione tra le scuole e quindi di rendere sostanzialmente quella che è la politica scolastica una politica di pubblicità in qualche modo, per arrivare evidentemente alla proliferazione di agenzie formative pubbliche e private e alla perdita progressiva di prestigio, di degrado di quelle che sono le scuole che sono poste in contesti più svantaggiati e che evidentemente sono destinate a un'utenza più debole. E l'ultima conseguenza, che evidentemente investirà anche il nostro sistema, soprattutto nel momento in cui le prove invalsi entreranno alla maturità o entreranno, come si pensa, addirittura a costituire l'elemento che determinerà la possibilità di accesso alle facoltà universitarie, è quello che viene definito teaching to test, cioè il fatto che tutta quanta la didattica viene piegata alla possibilità che hanno i ragazzi di superare questi test. Si arriva in Inghilterra al punto che i ragazzi più deboli vengono incentivati a restare a casa il giorno della prova, il giorno del test, proprio perché non abbassino quelli che sono la performance della scuola. No, e che questo sia il prossimo futuro anche qui in Italia non è una nostra invenzione, è scritto da tutte le parti. L'approvazione di pochi giorni fa, poche settimane fa, da parte del governo ormai defunto, di questo sistema nazionale di valutazione, di svalutazione, che ricalca esattamente questa filosofia, questa ideologia, e che già quest'anno alcune scuole che sono più realiste del re, in via sperimentale stiano praticheranno, somministreranno, come si dice, questi test invalsi all'ultimo anno delle scuole superiori, quindi sono scuole che già quest'anno faranno da apripista per il prossimo anno. Tutto questo ci fa capire dove stiamo andando. Se non vogliamo dire altro, io direi... Mi permetterei di dire solo un'ultima cosa, perché è una lettura che ho già fatto alcuni anni fa e che ho rifatto recentemente e che vorrei segnalare ai nostri ascoltatori per capire effettivamente che cosa è l'Invalsi, perché io sono e resto convinta che molti insegnanti che si prestano all'Invalsi effettivamente non la conoscano, non abbiano mai riflettuto su quelle che sono le conseguenze possibili dell'applicazione di questo tipo di prassi. Io vorrei consigliare appunto a tutti quelli che se la sentono di leggere il documento che è stato redatto da tre esperti a cui è stato affidato dall'Invalsi l'incarico di tracciare in qualche modo le linee programmatiche nel 2008, quindi diciamo la teoria di quella che è la valutazione attraverso i test, ed è un documento che si trova facilmente in internet, basta inserire nella stringa di ricerca i nomi di questi tre esperti che sono Daniele Checchi, Andrea Ichino, non il più noto Piero Ichino, e Giorgio Vittadini, che peraltro sono docenti di due di economia politica e uno di statistica metodologica alle università rispettivamente di Milano Bologna e Milano Bicocca. Mi dicono che Andrea Ichino è fratello di Piero Ichino, me lo mando in diretta perché non lo sapevo, e inserendo i nomi di queste tre persone accanto alla dicitura Invalsi si arriva a questo documento direttamente, che è un documento agghiacciante di cui vi risparmio la sintesi, ma che definisce nelle sue linee finali qual è lo scopo sostanzialmente della valutazione Invalsi, quale dovrebbe essere lo scopo del sistema di valutazione, che è uno scopo che è sostanzialmente binario: da una parte creare un'anagrafe degli studenti corredata di tutta una serie di indicatori che possano definire la variabile di contesto, indicatori che dovrebbero essere reperiti nelle maniere più disparate, dalla denuncia dei redditi delle famiglie, ai dati del censimento e così via, singolarmente per ogni studente, questa è la previsione, quindi una schedatura della popolazione nazionale, direi proprio, e la somministrazione dei test in due fasi, una di sperimentazione lunga in cui non si dice che i test, è scritto proprio così, servono a ridimensionare alcune istituzioni scolastiche, ma si cerca di incentivare quella che è la fiducia degli operatori della scuola all'Invalsi, facendo rispetto appunto ai test e rispetto all'Invalsi, e l'ultima fase in cui si va ad agire sulle scuole e gli obiettivi sono definiti in modo chiaro, e conseguentemente il reclutamento e la rimozione degli insegnanti valutati attraverso i risultati dei test, il reclutamento e la rimozione dei dirigenti scolastici, se Dio vuole, e per esempio l'accorpamento e la chiusura delle scuole che non raggiungono determinati obiettivi, l'erogazione di finanziamenti minori alle scuole che hanno risultati insoddisfacenti. E su questo lascio proprio la riflessione a voi. Che dura un secondo, perché adesso vi chiedo questo sforzo di diventare bambine e bambini di 7 anni e ascoltare per 3 minuti questa storia. Titolo: La forza del moscerino. Sara la formica e le sue sorelle tornavano a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Sara spingeva un chicco di grano, Mara una briciola di pane e Lara, la più forte, una spiga d'orzo tutta intera. Arrivarono all'entrata del formicaio, ma lì trovarono una sorpresa. L'ingresso era ostruito da una pietra grigia, enorme e liscia. Sara girò intorno al grande sasso per cercare un buchetto da cui entrare, ma fu tutto inutile. Non c'era nemmeno un passaggio piccolo piccolo. La pietra copriva perfettamente l'entrata. Le tre sorelle si misero a spingere la pietra con tutte le loro forze, ma il sasso non si spostò nemmeno di un pochino così. Spinsero da destra, da sinistra, da dietro, da davanti, di lato, di traverso, ma la pietra liscia era troppo pesante e non si mosse di un millimetro. Le formiche erano sudate e stanche, mentre l'entrata della loro casa era sempre chiusa. In quel momento, un ronzio leggero fece alzare la testa alle tre sorelle. Era un moscerino che si fermò proprio in cima al sasso. «Posso aiutarvi?» chiese. Non credo, rispose Sara. Se non riusciamo a spostare questo sasso noi tre, robuste formiche, non vedo che cosa potrebbe fare un esserino deboluccio come te. Il moscerino sorrise. Beh, per esempio potrei dire alla chiocciola di svegliarsi e spostarsi da qui. Poi si postò sul sasso liscio e chiamò ad alta voce. Chiocciola, chiocciola, svegliati. Stai dormendo sul formicaio delle mie amiche formiche. A quelle parole, dal sasso, che non era un sasso, uscirono un lungo collo e un paio di occhietti ancora addormentati. Perdonatemi, si scusò la chiocciola sbadigliando. Non me ne ero accorta, me ne vado subito. Così dicendo, si mosse e con calma spostò il suo guscio e liberò l'ingresso del formicaio. Rientriamo in voce e adesso bambine e bambini di 7 anni rispondete a queste domande. Prima domanda. Sara, Mara e Lara sono A, 3 amiche, B, 3 formiche, C, 3 bambine, 4, scusate, D, 3 mosche, A, B, C, D, scusate. Altra domanda. Leggendo spinsero da destra, da sinistra, da dietro, da davanti, di lato e di traverso, che cosa ti viene da pensare? A. Le formiche hanno fatto tutti gli sforzi possibili. B. Le formiche si arrampicano da tutte le parti. C. Le formiche hanno lavorato senza mai fermarsi. D. Le formiche sono insetti sempre in movimento. Cosa vuol dire la pietra non si mosse di un millimetro? A. La pietra non si spostò molto. B. La pietra si spostò di un millimetro. C. La pietra non si spostò per niente. D. La pietra si spostò di poco. Altra domanda. Perché le formiche erano sudate e stanche? A. Perché avevano fatto molta fatica. B. Perché avevano fatto molta strada. C. Perché avevano preso troppo sole. D. Perché avevano spinto le provviste. Cosa impediva alle formiche di entrare nel formicaio? Una pietra, una palla liscia, una lumaca, un guscio vuoto. E quella più importante, che cosa vuol farti capire il racconto? A. Il mondo degli insetti è molto interessante. B. Non sempre le cose sono quelle che sembrano. C. I moscerini sono più intelligenti delle formiche. D. Non sempre l'unione fa la forza. Forse qualcuno di voi avrà azzeccato tutte le risposte che noi non vi daremo, ovviamente, andatele a cercare. Ma questa esperienza è stata vissuta in una seconda elementare nel 2010 del secondo circolo didattico di Umbertide dalle bambine e dai bambini e dalla maestra Adriana Presentini, che ne ha fatto quasi una ricerca, un lavoro, quasi una tesi, perché all'ultima domanda, quella della morale della favola, quale fosse, quindi la scelta era tra 4 risposte come per tutte le domande, tutti i suoi alunni e le alunne hanno sbagliato la risposta. E quindi da buona insegnante si è posta la domanda, un problema. Ma si è posta il problema, esiste, dice chi sta sbagliando, sto sbagliando io, stanno sbagliando i ragazzi. Beh, chi ha formulato i test? Sì, i signori Invalsi, infatti la relazione, la ricerca si chiama I signori Invalsi. E quindi non ha comunicato alla classe qual era la risposta esatta, e non ha rimproverato le proprie bambine, i propri studenti, alunni, alunne del loro comportamento, anzi si è complimentata e ha fatto questo lavoro. Ha usato diverse lezioni, diversi incontri, quindi molte ore, per far discutere i ragazzi, rileggere questa favola e far confrontare i propri alunni e alunne, prima piccoli gruppi, poi collettivamente, su le emozioni prima, le domande poi, e per capire cosa ognuno avesse letto da queste parole. Quello che è uscito fuori è un bel lavoro che troverete magari dal nostro sito, metteremo il link, chi vuole leggere tutto il lavoro, che è, diciamo, consta di 25 pagine, quindi è un bel lavoro, e dal quale emerge questa attività molto feconda dei ragazzi e delle ragazze, che i bambini, che al secondo giorno riescono, diciamo, a riassumere così la morale che, diciamo, hanno completamente toppato nella risposta Invalsi, signori Invalsi. E quindi le 9 morali dei bambini sono le seguenti. Prima morale della favola: i più piccoli a volte possono essere più forti. Quando non sai qualcosa devi pensare a un piano. Non bisogna arrendersi. Non si deve denigrare o sottovalutare gli altri, ovvero non devi prendere in giro. Ce la puoi fare se usi tutta la forza che hai in te. Dobbiamo fidarci degli amici. Invece di prendere in giro gli altri, bisogna dargli almeno una possibilità. Prima di dire delle cose ci dobbiamo sempre pensare. La generosità: il moscerino aiuta le formiche anche se loro non gli danno fiducia. Ultima: bisogna credere agli altri. E dunque, quello che viene fuori è che la risposta esatta, che era la B, che non sempre le cose sono quelle che sembrano, cioè l'apparenza opposta alla realtà, era una cosa a cui i ragazzi non hanno pensato in quel momento, hanno tempo molto limitato, possibilità di rileggerlo, però tempo molto limitato, né prima né dopo non è venuto fuori questa morale che invece i signori Invalsi vedono in questo racconto. E poi, per chi ha ascoltato le risposte date dai bambini e dalle bambine, sono molto più simpatiche, molto più intelligenti, se vogliamo usare questo termine. Poi c'è chi ha parlato diffusamente di intelligenza emotiva, non a caso, e di quanto risulti fredda, no? Anche se in effetti è quella che è venuta per esempio in mente a me per prima, ma io non sono una bambina, ho perso probabilmente quella freschezza, quella capacità di guardare il mondo con occhi aperti e innocenti, e quindi evidentemente m'hanno educato, fra virgolette, alle loro modalità, e invece i bambini e le bambine hanno dimostrato di essere un passo o addirittura 1000 avanti al signor Invalsi. E quindi questa è la prova che non è possibile assolutamente, almeno a questi livelli. Poi se fai un'equazione matematica lì si apre un altro discorso, non che non si possa criticare l'Invalsi, l'abbiamo fatto, però qui è veramente volere forzare a tutti i costi, all'interno di un'operazionalizzazione statistica, qualche cosa che evidentemente è molto molto complicato forzare. Fra l'altro, il tipo di domande che sono state formulate, secondo noi, a una prima così lettura e ripescando un po' di conoscenze pedagogiche, ci sembrano anche non considerare, insomma, quelle che sono, sia pure in modo controverso, le conquiste del secolo scorso rispetto alla crescita intellettuale nell'essere umano. Quindi ci diamo due nomi, Piaget e Vygotsky, che seppure su versanti opposti, insomma, sicuramente non sono rintracciabili all'interno del cervello del signor Invalsi. Allora, passiamo a un altro argomento. Se vuoi aggiungere qualcosa, un pochino. Sì, volevo di dire musica. Che al di là dei riferimenti più colti, ma questi signori Invalsi non conoscono nemmeno il Piccolo Principe, insomma, anche un riferimento meramente letterario che hanno letto tutti. che le maestre conoscono sicuramente, i maestri. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Allora, proseguiamo con degli aggiornamenti riguardo a un tema trattato anche più di una volta, dove potete trovare poi i riferimenti delle puntate precedenti sul nostro sito, sempre, ed è quello che riguarda il bando mensa. Allora, nella scorsa settimana ci sono stati ben due eventi, insomma, che diciamo per noi sono abbastanza degni di nota, quantomeno per poterci fare dei commenti sopra almeno. E allora, la prima è che c'è stata una manifestazione sotto il Campidoglio dell'Osservatorio Alimentare dei Bambini e delle Bambine, che, come abbiamo detto altre volte, è un osservatorio che si è auto-costituito, auto-organizzato verso dicembre, per opporsi a questo bando mensa formato da genitori e genitrici, alcuni insegnanti, alcuni di varie scuole di Roma. E, però io personalmente purtroppo devo dire che spesso non mi trovo molto in sintonia con delle scelte che vengono fatte. Una di queste appunto è stata quella di spostare la data di questa manifestazione che era stata inizialmente convocata per giovedì scorso, in cui si voleva appunto alle 4:30 del pomeriggio, quindi con grandi difficoltà ad arrivare al centro di Roma per i genitori che poi hanno un orario, vanno a prendere i bambini magari chi fa il tempo pieno alle 4:30, e che comunque prevedeva così una manifestazione simbolica degli striscioni, un'occupazione simbolica della piazza e contestualmente anche la consegna delle firme che sono state raccolte in questo periodo di tempo, che hanno anch'esse un valore simbolico perché non sono una vera e propria petizione, però dimostrano la volontà dei genitori di opporsi. Se non che purtroppo, come accade spesso, l'abbiamo documentato da questi microfoni anche per quanto riguarda le occupazioni della scuola, le scuole superiori, tutto finisce per rientrare nell'alveo istituzionale, partitico, sindacale, no? E quindi venendo meno quei presupposti di auto-organizzazione, di auto costituzione che esistono, però in qualche modo rientrano, vanno a ricadere sempre dentro una matrice partitica soprattutto. Allora, perché io sono abbastanza contraria al fatto che sia stata spostata questa manifestazione al mercoledì, e questo diciamo in tempi brevissimi, cioè dal sabato al mercoledì, con quindi molte ovviamente molti genitori non hanno potuto intervenire, partecipare per organizzare comunque un qualche cosa, c'è bisogno di tempi, specie per chi ha dei bambini, lavora e si trova a vivere a Roma, appunto. Perché si è deciso così? Poi qualcuno, chi ha deciso e perché, non si capisce bene, perché non c'era più consiglio comunale. E quindi queste firme alla fine sembra che fossero la cosa più importante da fare, cioè altrimenti la manifestazione in sé non aveva senso, perché così qualcuno si è espresso in alcuni mail che sono state lette, non aveva senso fare una manifestazione, e quindi è stata anticipata praticamente al giorno precedente. Com'è andata? Diciamo sì, è andata benino, però sicuramente non è stata partecipata come lo sarebbe stata se fosse stata, avesse mantenuto la data che volevano. Dopodiché il giorno successivo invece c'è stato il nostro sindaco Alemanno, che anche lui dimissionario, qui sono tutti dimissionari però continuano imperterriti insomma a creare quantomeno disagi, è andato a Torbella Monaca in una scuola, in un istituto comprensivo di Torbella Monaca, a fare un pranzo. Proprio qui si aprono appunto per, allora scusate, faccio un passo indietro, perché anche sono contraria a questo di nuovo reinserimento all'interno dei circuiti dei partiti, perché poi siamo anche in campagna elettorale, quindi ognuno mette il cappello dove crede, quindi bando mensa è uno di quegli argomenti che vanno benissimo a destra e a sinistra, e quindi non è parso vero ad Alemanno di andare e proporre un menù con tutti i bambini a fare un pranzo a Torbella Monaca. Però io vi voglio solo leggere il menù. Allora, il menù, e questo perché siamo in una scuola interculturale, attenta alle diversità, attenta alle intolleranze, alle allergie e quant'altro: rigatoni alla matriciana con pecorino romano, bocconcini di abbacchio romano, patate al forno, bruschetta di pane di genzanio allo sabino, fragoline di neme e ciambellina al vino. Vabbè, menù a chilometro zero, perché secondo Alemanno... Una carneficina. Una carneficina. E poi secondo Alemanno, non so da dove abbia preso queste informazioni, chi è, chi sono i suoi portaborse, insomma, dice, ma è meglio la patata viterbese che la patata biologica che viene dalla Cina. Ora io e altri che siamo in gas, che siamo all'interno insomma di certi circuiti, noi le patate biologiche della Cina non le abbiamo mai viste né conosciute. Comunque, per parlare un po', poi questo diciamo è la parte più divertente. E poi ci sono delle nostre, noi appoggiamo poi delle rivendicazioni, abbiamo parlato la scorsa puntata dell'autoriduzione. Allora, perché insistiamo su questo? Perché appunto fuori dal teatrino della politica è l'unica cosa che poi va realmente a toccare eventualmente gli interessi, perché dietro questo bando si muovono degli interessi fortissimi dall'una e dall'altra parte, e qui cito anche AIAB che non a caso si fa una grande battaglia sul biologico, perché c'è qualcuno che poi anche lì il cappello ce lo mette, per cui si spinge molto sul cibo biologico, perché c'è questo ex ente certificatore che è AIAB, che riunisce una serie di coltivatori biologici sotto di sé e solo quelli, gli associati, e promuove appunto i suoi associati. Quindi al di là di campagne di ogni tipo, politiche e di interessi, è l'unico modo per intaccare questi interessi è proprio andarli a in qualche modo a scalfire. Come? Allora, qui abbiamo un nostro genitore dell'Aventino, ormai nostro inseparabile nella conduzione almeno di questo argomento, che ecco perché allora secondo te questa anche campagna dell'osservatorio alimentare un pochino misera, va? Diciamo, lo dico io, ovviamente. Non, secondo te cos'è che non va? Cioè, al di là dei passaggi condivisi su sicurezza alimentare e quindi qualità e quindi garantire a livello del refezione scolastica la sicurezza alimentare, quindi dati come quelli che portavamo su Roma, che negli ultimi 6 anni non abbiamo avuto casi di salmonella, quindi la sicurezza alimentare è questione importante, però la questione non può e non deve assolutamente essere affrontata solo su un livello pecorino e abbacchio laziale contro derrata certificata da questo o quell'altro ente, io lo certifico meglio o meno. Il problema è che la questione va affrontata su il taglio di risorse di un servizio di spesa pubblica, perché il cari Alemanno e De Palo, soprattutto il nostro assessore, che io mi sono promesso ogni volta che vengo qui da voi tra queste amiche e questi amici di ricordare che gira in sandalo da buon francescano e parla di politiche di famiglia e quindi del grosso sostegno che la sua amministrazione, il suo assessorato ha fatto per la famiglia. Mentre questi signori controbattono con l'osservatorio, appunto, perché sui mass media in questi giorni abbiamo assistito, anzi, a mio avviso, le iniziative dell'osservatorio hanno dato anche spalla e merito a rivendicarsi da parte di questi signori il fatto che, appunto, meglio la patata di Viterbo che quella che non sanno manco di che parlano. Il problema è che sia nelle discussioni e nei documenti che fanno girare l'osservatorio, sia negli articoli e i comunicati che lanciano la nostra giunta comunale, come ho ricordato nelle puntate precedenti, non dicono assolutamente che negli ultimi 3 anni la spesa di questo servizio è passato dal 60% a carico del comune e 40% alle famiglie a 60% alle famiglie e 40% al comune. Questo fino a prima di questo bando. Con il nuovo bando, con l'asta a ribasso, quindi con l'abbassamento del costo, succede esattamente questo. Succede che la tariffa continua a aumentare per le famiglie. Come abbiamo visto, le famiglie si sobbarcano degli adeguamenti Istat e tutto quello che i contratti commerciali prevedono. Quindi, sostanzialmente, se adesso un pasto costa 5,28 euro, una mensilità sono 20 pasti, quindi ogni bambino alla refezione scolastica o bambina costa 105,60 centesimi. Attualmente una famiglia paga 80 euro di rata, o in media, no? Perché poi ci sono quello che paga 100, quello che paga 40. E il comune ne paga 25 nel caso della rata 80. Se il pasto va a 4 euro... 20 pasti costano 80 euro, quindi ecco qui la minestra è servita. Alemanno non la paga più, ma aspettate, perché c'è anche altro, la paghi anche se non vai a scuola, perché sei in vacanza, la scuola è chiusa, la paghi anche quando sei malato e quindi non vai a scuola, e questo è l'ennesima truffa che si aggiunge. Quindi c'è anche tra virgolette c'è anche un guadagno. Io però mi chiedo, e qui mi associo a Paola che prima definiva appunto qualche dubbio, perché qualche dubbio viene anche a me, perché tra le attività che l'osservatorio a cui io ho partecipato anche insieme a molte, molte assemblee e anche ad alcuni politici che si sono espressi, parlo di Paolo Masini del Partito Democratico, parlo di qualche altro politico che oggi milita in Roma Bene Comune, quindi pronti alla campagna elettorale per salire al Campidoglio, e continuano a parlare di questo controverso bando perché si taglia il biologico, però nessuno dice esplicitamente che c'è un taglio alla spesa sociale, e questo è il problema. Ho il dubbio che, appunto, come lei dice, qualche cartello d'impresa può avere gli interessi. Io penso che l'interesse di qualche partito può essere anche quello: fate questo taglio alla spesa che poi arrivo io e i lavori sono già fatti, mi viene da pensare. Però io, come dicevo, con la campagna che noi abbiamo promosso e proposto all'interno dell'osservatorio, che molti genitori hanno condiviso, che molte scuole si stanno attivando e comunque raccolgono con molto interesse, è quello di capire che questo bando si ferma non finanziandolo, per questo non va pagato. L'unico modo con cui possiamo fermare questo bando non è su mantenere, perché il sistema di questo bando è che il comune sta scaricando addosso alle famiglie l'agosto della refezione scolastica. Per fare questo te lo fa pagare e mangi pure male, e paghi anche se non mangi. Penso che l'autoriduzione sia l'unica via di uscita. Grazie. Allora, sul nostro sito poi, perché il discorso dell'autoriduzione, anche questo è stato un pochino osteggiato all'interno, o quantomeno trascurato, o un po' anche censurato all'interno di questo osservatorio alimentare dei bambini e delle bambine. Comunque, qui non è che si tratta di non pagare mai, no? La scorsa puntata, se qualcuno ha voglia di andarsela a risentire, qui si tratta appunto di un conteggio certosino, no? Di quali pasti, comunque, certo, ben venga un'opposizione più radicale, ma comunque sia, anche soltanto non pagare quel mese e mezzo non dovuto, proprio perché poi l'azienda, lo spiegava l'altra volta il nostro compagno, non è che in casa l'azienda appaltatrice non è retribuita forfettariamente, ma a ogni singolo pasto. Sì, la mattina passa un addetto, un'addetta che guarda, cioè che chiede le presenze, quindi su questo non si scappa. Pertanto voglio aggiungere una cosa: di questo avanzo mensa non riesce neanche ad assumersi la responsabilità, e questo non lo fanno neanche le scuole autogestite, di pagare i pasti agli assistenti all'educazione, agli AEC, che sono costrette ad abbandonare i bambini con disagio, ad andare a mensa da soli e non aiutarli nel momento più importante della giornata, per quell'ora educativo in cui stanno insieme agli altri e condividono un momento così importante della formazione. No, escludono anche dei lavoratori che devono uscire e andare a prendersi un panino fuori, quando tra l'altro noi abbiamo già pagato pure la mensa per loro. Pertanto, continuo a dirlo, io sono proprio per non pagarla la mensa, perché tra l'altro noi lavoratori di questa città abbiamo l'addizionale IRPEF più alta d'Italia, quindi questo servizio l'abbiamo già pagato, come ce lo restituiscono? Le nostre tasse come ce le restituiscono? Allora riprendiamocele. Siamo d'accordo. Io poi aggiungerei, ancora a caricar di più, che quindi non solo la qualità del cibo è sempre più scadente, non solo ci derubano, perché questa è la truffa, e quindi questa è, ma poi anche in questo bando, appunto, anche i più accorti che mirano al biologico e quant'altro, non si pensa mai ai lavoratori poi delle mense, che sono veramente, sappiamo noi, purtroppo non escono fuori, ma chissà, ecco, chissà. Non vengono sostituiti, hanno dei turni abbastanza massacranti, la retribuzione è quella che è, e abbiamo scoperto che la vivenda per esempio ha avuto anche un'evasione contributiva, quindi insomma è tutto l'impianto che non funziona, quindi non paghiamo la mensa. No, volevo darvi un altro aggiornamento sulla situazione del bando, perché le 72 scuole autogestite di Roma, che erano le uniche che potevano opporsi a questo bando, perché è stato chiesto dal comune, è stato imposto che devono sostenere anche le spese di pubblicazione del bando, loro potevano rifiutarsi perché non era dovuto a un ente che fa capo al MIUR di sostenere le spese di un bando che va a un ente locale, che è il Comune di Roma. Però i nostri cari dirigenti, nella maggior parte dei casi, ho 4-5 segnalazioni sulla città, tra cui la mia scuola, hanno deciso, su indicazioni di una grande associazione, che è l'ASAL, l'Associazione delle Scuole Autonome del Lazio, di andare al bando senza neanche il passaggio nei consigli d'istituto. Questo è un atto gravissimo, in cui se i genitori che stanno ascoltando in questo momento chiedono di opporsi, di fare riferimento all'ufficio scolastico regionale e di chiedere le applicazioni delle delibere dei consigli d'istituto. I dirigenti non possono decidere cosa mangeranno i vostri figli per i prossimi 5 anni, lo decideremo noi. Quindi ripetiamo che con lo slogan di abbasso gli sprechi vengono, come dire, tolti dei servizi, vengono tolti dei servizi, e con lo slogan viva il merito viene massacrata la didattica e anche l'idea della valutazione, diciamo, queste due parole, no? Spreco e merito, che sembrerebbero dover attirare, no? Il consenso di tutti, anzi è proprio una modalità di propaganda fenomenale, in realtà stanno massacrando in questo caso la scuola. Bene, io penso che possiamo concludere se non c'è altro da aggiungere, insomma, qualcosa di cui parleremo la prossima volta sicuramente è che questo concorsone si sta rivelando sempre di più fra buste che si perdono e non si ritrovano, e anche il fatto che queste 11.000 rotte cattedre che erano state promesse non ci saranno, quindi già il Ministero fa sapere che ci sarà, la graduatoria durerà fino al 2015, quindi a questo punto ci chiediamo che fine fa il secondo concorso che doveva essere fatto dopo 2 anni, e che alla luce del fatto che, data la falcidia della riforma Fornero, in pensione quest'anno vanno la metà assolutamente secca di quanti erano andati l'anno scorso, e quindi a questo punto saltano tutte le previsioni. Mentre il numero dei posti disponibili da mettere a bando erano stati calcolati senza tenere conto degli effetti della riforma Fornero dal governo tecnico tanto decantato. E allora ci sentiamo la settimana prossima, sempre alle 16, dai microfoni di Radio Onda Rossa. L'ora di buco oggi vi saluta, e dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali. Ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi. E quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però hai rivestito la tua chiesa di tende d'oro e marmi colorati. Come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa sua? Egregio sindaco,